l'idea di fare qualcosa per dare un po' una scossa alla città, ma soprattutto all'amministrazione comunale e metropolitana su questi temi, in quanto abbiamo letto tutti noi almeno il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un documento molto ambizioso, quasi idealista per certi aspetti. Tuttavia, nelle scelte concrete che vediamo venire avanti tutti i giorni, non ci è sembrato di vedere sempre la coerenza con quegli obiettivi e quei principi molto alti che abbiamo letto nel piano. Da lì è nata l'idea quindi di mettere insieme chi ci stava, quindi associazioni attente all'ambiente, ma anche comitati di utenti del trasporto pubblico, ma anche associazioni di ciclisti, di persone che scelgono la bici come modo di muoversi in città, per tutti insieme fare un po' massa critica e dire al comune: guardate, vi osserviamo, insomma, stiamo attenti alle vostre scelte perché non tutte sono in linea con i principi. È secondo noi un'iniziativa necessaria per evitare che ci prendano in giro. Ti faccio un esempio: si parla di servizio ferroviario metropolitano. Io fui eletto in consiglio di quartiere nel 1999 e il progetto era già 6 anni che era in campo, perché il primo accordo credo che sia del 93, cioè quando si decise di fare l'alta velocità che passasse sotto Bologna, si cominciò a dire: beh, il beneficio per la città, che dovrà sopportare i disagi di anni di cantieri per l'alta velocità, il beneficio quale sarà? Quello che avrà binari di superficie liberati per poterci mettere i treni locali, quelli dei pendolari. Bene, l'alta velocità c'è da 5 anni, i binari passanti, cioè i binari di superficie che dovevano essere dati al trasporto locale, non sono stati dati. Le istituzioni si sono disinteressate di questo e naturalmente RFI, Trenitalia, si tengono queste infrastrutture per i loro usi, perché è ovvio che è merce preziosa da poter utilizzare per il traffico nazionale anziché locale. Questo è solo un esempio, ma ne potremmo fare altri. Si parla tanto di integrazione tarifaria, cioè tu con un biglietto solo prendi treno, autobus, domani quando ci sarà tram, eccetera eccetera. Che cos'è che è necessario per l'integrazione tarifaria? Che tutti obliterino il titolo di viaggio in tutti i mezzi, perché solo in questo modo poi le compagnie, le società si possono suddividere gli introiti, perché se mentre adesso tu, se fai un biglietto del treno paghi le ferrovie, un biglietto dell'autobus paghi tipper, un domani con l'integrazione completa con un biglietto solo giri dappertutto. E quindi come si fa a stabilire quanti soldi del tuo biglietto vanno all'uno o all'altro? Bene, ci vuole l'obliterazione obbligatoria. Il problema caldo in questi giorni del passante di mezzo, o tanto per citarne un altro, il nuovo casello di Casalecchio, che è precluso agli utenti normali ma aperto solo ai possessori della blu, della tessera automatica. È così, è il casello, per precisione è il casello di Sasso Marconi Nord, no. Un casello che è stato fatto appunto un paio d'anni fa, mi sembra, e inaugurato, solo che per tutti i primi mesi, io ne sono stato testimone andandoci una volta, io ho il telepass perché aziendalmente ce l'ho, ma ho visto automobili fare retromarcia nella corsia d'ingresso al casello, quindi rientrare in autostrada in retromarcia, perché ormai oggigiorno si dà per scontato che un casello ti permetta di pagare col banco, ma con la carta di credito, e invece no, lì abbiamo solo il telepass, ma è solo un atto di arroganza. Altri ne sono stati fatti sul tema delle compensazioni ambientali sul passante. Cioè, il problema anche qui è che abbiamo una politica debole davanti a società molto ricche e molto forti, che in alcuni casi, adesso non parlo specificamente di autostrade, hanno un ulteriore problema, quello delle porte girevoli, ovvero ci sono carriere, iniziano nell'amministrazione e proseguono nelle società partecipate, con ovviamente incarichi lautamente retribuiti. Ora, la domanda che ci dobbiamo fare come cittadini è: siamo sicuri che questo tipo di cursus honorum, questo tipo di carriera, garantisca che le scelte vengano fatte nell'interesse comune? Perché purtroppo abbiamo molti casi di appunto ex assessori o sindaci che poi trovano lavoro, diciamo così, nelle società a cui magari hanno concesso in maniera con manica larga, diciamo, permessi o atti comunque che le hanno favorite durante il loro mandato. Questo mi fa pensare che, senza toccare nulla di penale, per carità, non rimanendo tutto nel lecito, però forse potrebbero esserci conflitti di interesse tali per cui un gruppo di cittadini come quello che stiamo cercando di organizzare con associazioni e comitati, vigilando sulle scelte amministrative, possa dare una mano, diciamo così, alle amministrazioni per mantenersi nel solco del pubblico interesse.